Ben ritrovate e ben ritrovati alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quark. Siete all'ascolto della terza puntata di Il Nemico, viaggio tra vecchi e nuovi fascismi. Sono Salvatore e mi affianca come sempre in questo viaggio Raffaele, che saluto. Ciao Raff. Ciao a tutte e a tutti. In questa puntata siamo felici di avere come ospite Saverio Ferrari di Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre. Ciao Saverio. Ciao, grazie dell'invito. Intanto, se puoi presentarci Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre e il vostro lavoro. Sì, l'osservatorio nasce a ridosso del primo processo sulla strage di Piazza Fontana, quello che si avvia nel 2000, per la prima volta un processo a Milano sulla strage del 12 dicembre del 1969, e lì si costituisce l'osservatorio che inizialmente aveva questa funzione, quella di seguire le udienze, seguire questo avvenimento, che è uno degli avvenimenti che hanno cambiato la storia d'Italia. E quindi abbiamo avviato un lavoro che poi ha continuato sulla stessa strada parzialmente, perché siamo stati in grado di seguire ancora tutti gli altri processi penali che poi, a seguito anche delle inchieste della magistratura, erano venuti alla ribalta la strage di Piazza della Loggia dopo quello di Piazza Fontana, e quindi ci siamo posti il compito di un lavoro di documentazione e di approfondimento della strategia della tensione. Ma poi il lavoro si è allargato ancora ed è diventato un lavoro di monitoraggio, analisi, approfondimento dei fenomeni neofascisti e neonazisti in Italia, in modo particolare, monitorando quindi i fenomeni anche razzisti e xenofobi del nostro paese. Questo è un po' il nostro progetto, la nostra missione che continua ormai da più di 24 anni. Iniziamo con i fatti di Bologna successi sabato scorso, e da qui possiamo evincere che ormai sono anni che vengono concesse sempre più piazze e sempre più spazi ad organizzazioni fasciste, con tanto di polizia a sorvegliare e a criminare gli eventuali contromanifestazioni antifasciste. Siamo davvero alla legittimazione completa del fascismo o c'è ancora margine per intervenire? Ma i margini ci sono ancora per intervenire. Tu hai citato i fatti di Bologna, che però segnano un passo avanti e quindi non sono stati un fatto secondario, perché, come è stato denunciato da più parti, in questa circostanza è stato il governo che ha chiamato le camicie nere a Bologna per una ragione legata alle prossime elezioni regionali che saranno tra qualche giorno e che dovevano quindi essere disturbate attraverso questa provocazione. Sono state chiamate perché è documentato il fatto che il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico avessero deciso con il prefetto e il questore di spostare questa manifestazione lontana dal centro e in modo particolare dalla piazza antistante la stazione di Bologna, che è stato, come dire, il teatro della più grave strage che si è consumata in Italia nella Repubblica, 85 morti e 200 feriti. Ecco, c'è stato l'intervento del ministro Piantedosi, che ha invece annullato senza nessun passaggio formale questa decisione e ha portato avanti lui stesso la provocazione. Apro una parentesi: il ministro Piantedosi non è nuovo a queste iniziative, chiamiamole in questo modo. Qualcuno dovrà pur ricordare che lui era il prefetto di Roma quando il 9 ottobre del 2021 fu dirottato il corteo di Forza Nuova, fu dirottato il corteo di Forza Nuova che partiva da Piazza del Popolo verso la sede nazionale della CGIL, che fu poi assaltata. Dicevo che è un fatto su cui riflettere, perché di fronte a un'area del neofascismo in Italia che è abbastanza in difficoltà e in crisi, può sembrare un paradosso rispetto al fatto che al governo c'è una formazione politica, un partito che è quello dei Fratelli d'Italia, che è una rifondazione Messina, però questo ha determinato una sorta di assorbimento, non solo dal punto di vista elettorale, ma un assorbimento di fatto di quest'area, da parte dei Fratelli d'Italia, per cui li ha svuotato quest'area, o meglio l'area di chi apertamente si dichiara neofascista da Forza Nuova a Casa Pound. Adesso invece si è pensato di rilanciare, perché può essere utile proprio come strumento di aumento della tensione, favorire quindi letteralmente la provocazione ai danni delle forze democratiche, ma ai danno degli antifascisti. E quindi c'è forse una stagione nuova che si apre, e i gruppi neofascisti l'hanno capito benissimo, perché dopo la vicenda di Bologna hanno riproposto il fatto di continuare su questa strada, di promuovere manifestazioni che prima avevano difficoltà a portare avanti, e quindi già il prossimo 17 di novembre è annunciata una manifestazione di Forza Nuova a Roma, e qui in Lombardia, a Brescia, si stanno attrezzando iniziative da parte di Casa Pound e della Rete dei Patrioti, cioè gli stessi che si erano mossi il 9 novembre sulla piazza di Bologna. Siamo in una fase quindi dove non è che gli spazi sono chiusi per l'iniziativa e per il contrasto. Vorrei ricordare che a Bologna c'è stata una contromanifestazione, 1200-1400 partecipanti, e le cronache dicono anche che i cittadini non sono stati totalmente in silenzio, sono stati fischiati e lanciati oggetti dai balconi e dalle finestre lungo il percorso della manifestazione dei neofascisti, sono stati lanciati anche dei petardi. Forse si potrà dire la città di Bologna è forse da questo punto di vista più avanzata di altre, ma io voglio dire che è stata comunque una reazione di cui dobbiamo tener conto. I margini ci sono, spetta credo a chi è antifascista in questo paese a riempirli e a trovare il modo di organizzare una risposta complessiva e generale che sia all'altezza di questo conflitto, la cui asticella si sta alzando sempre di più. Senti, Saverio, secondo te come agiscono invece i nuovi fascisti nel contesto sociale italiano? Ma i neofascisti hanno pensato che si potesse trovare una possibilità di sviluppo modificando anche ciò che era sempre stato il loro modello organizzativo e alcuni indirizzi di tipo politico e culturale. Siamo anche in un'epoca dove i social, internet, eccetera, hanno comunque favorito tutto ciò, però si è pensato da parte di quest'area di darsi anche una conformazione organizzativa diversa da quella che avevamo conosciuto nel passato. E se voi guardate bene, tutte quante le organizzazioni, da Forza Nuova, Casa Pound, all'Altazione, che è la formazione principale qui in Lombardia, hanno pensato di costituire una sorta di corona di associazioni di scopo, con le denominazioni più varie, occupandosi dei temi più disparati, però guardando soprattutto alle nuove generazioni, perché l'obiettivo è quello e rimane quello di insediarsi tra le nuove generazioni e avere un movimento giovanile, guardando alle esperienze del passato dal loro punto di vista, cioè facendo quelli che ricordano i primi anni 20, quando si parlava anche di rivoluzione giovanile da parte del primo movimento fascista che doveva sbaraccare i partiti, i sindacati di massa e il Parlamento. Loro vogliono ripetere, pensando che vi siano le condizioni, operazioni di questo tipo, ma si sono dati una struttura organizzativa diversa per avere una maggiore superficie di contatto, soprattutto con i giovani. E il modello è il modello che è stato assunto da tutte quante le organizzazioni che, pur essendo fortemente centralizzate, hanno questo tipo di articolazione. E poi i terreni e i contenuti. I contenuti non sono quelli di legge e ordine del MIS degli anni 70. I contenuti sono sociali, si guarda a inglobare in buona sostanza istanze sociali puntando a un rapporto con alcuni strati popolari, si sarebbe detto una volta delle classi subalterne, volgendole verso proteste e movimenti che in un qualche modo siano con questo profilo e con queste caratteristiche. E i terreni sono diventati inevitabilmente soprattutto quelli delle periferie delle grandi metropoli, dove lo stato sociale è sempre più precario, e costruendo all'interno di queste situazioni quasi una strategia della tensione xenofoba, e cioè io rappresento gli autoctoni, quelli che hanno diritto e ragione di vivere su questi territori, contro quelli che ci invadono, arrivano a contestare i nostri diritti di stato sociale, di diritti in generale, che noi quindi concediamo ad altri che vengono anche a imbastardire la nostra etnia. E quindi si è sviluppato tutto questo, e gli strumenti sono stati anche moderni: internet, la musica, che ha avuto e ha un ruolo importante rispetto alle aggregazioni, non più semplicemente sedi di partito o sedi di associazioni, ma sedi da centro sociale. Quindi si è copiato rispetto alla sinistra questo modello aggregativo, sviluppando quindi una rete che nelle intenzioni doveva portare a quell'obiettivo che dicevo prima. Quindi ci si è mossi lungo questa direttrice, con ciascuna realtà avendo un'identità e una storia anche diversa, perché metterli tutti assieme confonde l'analisi. Non hanno tutti quanti lo stesso profilo politico e pseudoculturale. Forza Nuova ha, come dire, un'identità che ha guardato con interesse a una storia che esce dall'Italia, che è quella dei movimenti collaborazionisti dei nazisti, e da questo punto di vista hanno cercato di inglobare anche tutte le simbologie possibili che rimandassero a quel mondo, no? Per cui si sono scelti anche dei nuovi eroi, per così dire, da Léon de Grel a Cornelius de Lea Codreanu, quindi una storia che quindi è fuoriuscita dal fascismo italiano, cosa contenuta invece in Casa Pound, che ha invece proprio questo tipo di impostazione di guardare al primo movimento fascista del 1920, copiarlo e anche assumere un po', come dire, iconograficamente, ma anche dal punto di vista delle intestazioni, cose che venivano da quella storia. Io nelle iniziative che faccio ricordo ad esempio la vicenda di Cremona, quando qualche anno fa i militanti di Casa Pound aggredirono dei giovani di un centro sociale, il centro sociale Dordoni, causando ferite in alcuni degli aggrediti, addirittura lesioni permanenti. Ebbene, il centro sociale, meglio, la sede di Casa Pound di Cremona ha un nome particolare, ancora adesso lo esibisce, che è quello di Stoccafisso. Stoccafisso non è una goliardata, Stoccafisso rimanda al movimento fascista dei primi anni 1920, quando di fronte ad alcuni divieti all'uso dei bastoni, dei manganelli da poter portare in giro, i fascisti di Italo Balbo, i fascisti di Farinacci, ricorsero agli stoccafissi sottosale, un metro e mezzo, lunghi come bastoni, e per un po' in quel frangente si picchiò addirittura con gli stoccafissi. Quindi quando si intesta la propria sede a stoccafisso si fa un rimando a un'epoca del nascente squadrismo in Val Padana, ma si dice anche della propria identità che guarda in modo molto preciso ai primi anni 20, cercando di ripetere una storia che noi dobbiamo impedire in tutti i modi che possa anche semplicemente solo pensare di poter essere riproposta. Allora, parlavamo prima appunto di questi spazi concessi ai fascisti sempre più in maniera sovente e soprattutto nei quartieri periferici, dove ormai, quartieri periferici della grande città, dove ormai i fascisti sono presenti con associazioni, come avevi detto tu, anche sotto mentite spoglie, ma più o meno il filone è sempre quello. E come mai i fascisti sono riusciti, non dico a impossessarsi di quartieri, ma comunque di essere una presenza molto forte e molto ben voluta in posti dove prima, diciamo, c'era una certa azione comune, quindi anche alcuni quartieri storicamente un po' di sinistra, di collettivi e di tutte queste realtà. Beh, bisognerebbe però considerare territori e territori, perché questi tentativi hanno avuto successo in alcune situazioni e in altre hanno alla fine mostrato la corda e non hanno prodotto, per fortuna, dei risultati. Qui in Lombardia, da dove io vi parlo, vi è stata una ritirata dal punto di vista della presenza di queste organizzazioni. Dicevo prima, quasi per paradosso, rispetto alla situazione del governo in questo momento e alla forza dei Fratelli d'Italia. Hanno chiuso diverse sedi, sono andate in crisi alcune imprese commerciali. Alcuni tentativi che sono stati fatti, ad esempio sull'area di Milano da parte di Casa Pound, cercando di esportare dirigenti nazionali come Francesco Polacchi, investendo risorse finanziarie per aprire una specie di centro culturale, non è riuscito, anche perché c'è la risposta in alcuni territori da parte degli antifascisti, variamente organizzati in associazioni e movimenti. L'inizio di questa storia che ha consentito di acquisire spazi è dovuto alla crisi, diciamo, di valori. Sono andate in crisi le culture della solidarietà e dell'uguaglianza, sono andate in crisi le formazioni partitiche di sinistra che oggi si sono ridotte al lumicino. E quindi si sono ritirate un po' le situazioni che un tempo potevano pensare di sviluppare presenza e egemonia in territori e quartieri popolari. È un po' la politica dei vuoti. Quando si determina un vuoto, inevitabilmente c'è il rischio che venga riempito. In questo caso, per diversi anni si è riempito da parte dell'estrema destra di formazioni apertamente neofasciste. Ma ripeto, è un'analisi che dovrebbe essere valutata territorio per territorio, perché non è omogenea, non è uguale. La situazione è assai critica anche per un paese che, come dicono le ultime indagini del Censis, e quindi della struttura dell'istituzione più accreditata dal punto di vista del comprendere e interpretare le tendenze degli italiani, ecco, ci hanno detto queste indagini, queste inchieste del Censis, che l'Italia è un paese in cui ormai supera il 50% la parte che gradirebbe un uomo forte, che prende in mano le redini del paese. E si potrebbe rinunciare per questa via anche a rappresentanze parlamentari, si dice apertamente da parte di coloro che sono stati contattati e intervistati che si può rinunciare tranquillamente a una rappresentanza parlamentare. E questa cosa però già in parte marcia con la non partecipazione alle diverse scadenze elettorali, che non riguarda solo i livelli nazionali, riguarda i livelli, come è successo ultimamente, delle elezioni al Parlamento europeo, riguarda i livelli regionali e comunali. Si è votato ultimamente nella regione Liguria, vota meno della metà degli aventi diritto. Questo è già un segno fortissimo di come sta evolvendosi e involvendosi questo paese rispetto a ciò che dicevo prima, e quindi ecco che gli spazi inevitabilmente si sono aperti. Chiaro. Saverio, scusami, ovviamente vorremmo anche andare ad indagare ciò che succede in Europa. E non solo in Europa, perché comunque il vento del nuovo fascismo, diciamo, soffia anche in paesi come, soprattutto in Ungheria, Spagna, Austria, Germania, in parte anche in Francia, e sempre più formazioni, storico meno, raggiungono, diciamo, anche posti di comando, grazie al voto o nelle amministrazioni comunali o comunque anche al governo. Perché secondo te questo successo nelle urne è perché un ritorno a politiche repressive e così fortemente autoritarie non spaventa più nessuno? Una considerazione generale rispetto al voto europeo. Secondo una ricognizione statistica, chiamiamola in questo modo, nell'ultimo quarto di secolo il peso di quell'area che chiamiamo in vario modo populista, sovranista, di estrema destra, con dentro componenti neofasciste e a volte neonaziste, è passata in un quarto di secolo dall'8% del 1999 al 24%. E questo, come dire, dice molto di una crescita di queste destre, che sono diverse sicuramente da paese a paese, anche se hanno dei denominatori comuni, che è l'aspetto principale, perché in genere si cerca di delimitare i confini di ciascuna formazione, partito, movimento politico, ma bisogna andare a vedere i denominatori comuni per capire qual è il problema. E i denominatori comuni di quest'area che è avanzata in questo modo sono l'opposizione in primo luogo alla società multiculturale e multietnica. Lì, da parte di tutte quante queste realtà politiche, vi è il problema dell'immigrazione, c'è il problema del nemico esterno, che variamente viene definito in primo luogo sulla base delle immigrazioni del migrante, ma che poi diventa il musulmano, diventa l'ebreo, diventa il gay, l'omosessuale. E cioè tutte queste formazioni che sono cresciute hanno questo denominatore comune, altrimenti noi non riusciremo neanche a capire il perché dell'associarsi, come è appena accaduto, da parte delle estreme destre, uso questa espressione complessiva, in tre diversi gruppi parlamentari che, se uno va a vedere, sono dei contenitori di storie molto diverse tra di loro. Nel gruppo principale, cosiddetto dei patrioti, noi andiamo dai nazionalisti di Marine Le Pen, ai leghisti, agli etno-regionalisti, andiamo addirittura con il Partito per la Libertà, cosiddetto il PVV olandese, che ha anche un programma completamente assolutamente diverso da quello di tutti gli altri con cui si è associato, perché bisognerebbe ricordare che Geert Wilders, che ha vinto le elezioni nel 2023 in Olanda e che guida il Partito per la Libertà, il PVV, viene da una storia particolare, è stato fondato da Pin Fortuyn, un omosessuale che è stato ucciso nel 2002 da un musulmano, ma che ha nel proprio programma il riconoscimento dell'eutanasia, i matrimoni omosessuali, la liberalizzazione delle droghe. E quindi questo si potrebbe dire non c'entra niente con tutti gli altri, invece c'entra, perché il ragionamento è da parte di costoro: noi non disconosciamo alcuni diritti, vogliamo solo che quei diritti siano per gli autoctoni, per noi, e non siano concessi assolutamente a chi viene come migrante da fuori. Quindi c'è questa cosa. Lo spazio per cui sono cresciuti è dovuto a diversi elementi. Non estraneo è nemmeno il fatto che una parte di queste formazioni siano contro la guerra in Ucraina. Si veda la vicenda ultima del FPÖ in Austria, che hanno vinto le elezioni nel settembre scorso, che hanno collegato la vicenda della guerra in Ucraina alle condizioni sociali ed economiche di vita dei cittadini austriaci, ponendo il problema, lì c'è un problema molto grosso rispetto alle forniture di gas, del fatto che gli ucraini vorrebbero impedire entro la fine dell'anno il passaggio del gas che passa per l'Ucraina e viene dalla Russia, che è il 90% delle risorse energetiche dell'Austria. Quindi si sono mossi in questo caso su un piano di indipendenza del paese. Già l'Austria non aderisce alla NATO, ma vi collabora, e hanno legato le vicende internazionali alle condizioni di vita dei propri concittadini. Ma la stessa cosa, per certi aspetti, li hanno fatti in Germania quelli di Alternative für Deutschland. Ma se uno guarda al risultato francese che dicevate prima voi, dove nelle elezioni europee ha vinto il Rassemblement National, nelle elezioni nazionali ha vinto il Fronte Popolare, ma se uno guarda il programma del Rassemblement National scoprirà che è un programma che guarda, tra virgolette, a sinistra, dove pone il problema delle ore lavorative, pone il problema delle bollette, pone il problema delle pensioni, pone il problema del salario minimo. E quindi le destre che sono cresciute in molte occasioni hanno inglobato ampie quote di ceti popolari che vivono male, in questo caso, essendo il voto europeo, l'appartenenza all'Unione Europea. Ci sono anche indagini serie rispetto alla differenziazione in Europa tra i voti delle aree urbane e delle aree rurali. Si dice che il 60 e passa per cento di chi abita nelle grandi città vede con favore l'Unione Europea, la cosa è rovesciata rispetto alle aree rurali, che peraltro hanno un gap rispetto al reddito che è stato considerato da una delle commissioni istituite dal Parlamento Europeo in questo momento un gap del 12% in meno per le aree rurali, in una serie storica più lunga addirittura del 20%. Quindi non siamo di fronte a partiti che propugnano semplicemente legge e ordine, siamo di fronte a dei partiti che crescono perché si interfacciano con i problemi sociali di ampie quote di popolazione, un tempo serbatoie elettorali dei partiti democratici di sinistra, ma come in Italia, anche in Europa, vi è stato un declino e una parabola dei partiti progressisti democratici di sinistra. Basta guardare alla crisi dei socialdemocratici. E quindi ecco, ci sono ragioni di questo tipo. Voi dicevate prima che sono cresciuti diventando il primo partito in certi paesi. Guardate che sono paesi importanti: il Belgio, la Francia, l'Austria, la Grecia, l'Ungheria, vedono al primo posto partiti di estrema destra. Ma questa cosa è anche confermata dalla mappa dei governi di destra con l'estrema destra a livello europeo. Guardate che ci sono 11 paesi su 27 con una popolazione complessiva di quasi 141 milioni di abitanti su 446 milioni di cittadini europei, che sono governati da destra con a volte accordi di governo con formazioni di estrema destra. Quello che si potrebbe definire il centro-sinistra è solo in tre paesi, Spagna, Malta e Slovenia, 50 milioni di abitanti. Quindi siamo di fronte non a un fenomeno passeggero, e un intellettuale, forse il più intelligente, raffinato intellettuale di estrema destra che l'Europa conosce, Alain de Benoist, dopo il voto europeo rispetto alla Francia, ha fatto alcune dichiarazioni di cui dovremmo tener conto, perché sono non infondate. Cioè ha detto: guardate che non c'è una rabbia passeggera, c'è una scissione di parte delle popolazioni, in questo caso si riferiva alla Francia in modo particolare, c'è una scissione rispetto all'élite, e quindi c'è non più semplicemente un fatto episodico, un fuoco di paglia che potrà essere spento in breve tempo, siamo di fronte a dei fenomeni ormai di tipo strutturale. Se torniamo alla natura di quello che hai detto della, diciamo, della destra che si occupa dei problemi dei cittadini, noi abbiamo sempre pensato che comunque questo anticapitalismo di destra non è mai esistito, cioè i fascisti sono sempre stati i cani da guardia del capitale, continuano ad esserlo ancora ad oggi. Anche il nostro governo antieuropeista all'opposizione è super atlantista europeista quando governa, però nonostante ciò continuano con la loro propaganda a far credere che riescano a risolvere i problemi come se fosse una destra sociale, ma noi sappiamo benissimo che non può essere così. Come riescono a far breccia sull'elettorato avendo queste contraddizioni palesi? Beh, diciamo che fanno breccia sull'elettorato che vota, perché, ripeto, metà dell'elettorato ha una disaffezione che precedentemente non si era mai verificata con questa dimensione. Questo riguarda l'Italia e riguarda anche tanti altri paesi europei. Hai ragione, la destra che ci governa non ha nulla dal punto di vista dell'essere una destra sociale. Si è subito allineata rispetto in modo particolare al comando degli Stati Uniti, e d'altronde era l'unica condizione che aveva per poter governare. Chi è che si mette in testa da destra di poter gestire questo paese entrando in un conflitto con gli Stati Uniti sarebbe destinato a una sconfitta, come dire, precipitosa. Come si fa? Si fa mettendo insieme propaganda, proposte che magari tra di loro sono contraddittorie, ma che in questo momento hanno un consenso perché ci si affida. Se guardate la mobilità elettorale italiana, scoprireste che nel 2019, alle ultime elezioni europee, la Lega aveva preso più del 34% dei voti. Adesso è rifluita attorno all'8, ha perso 9 milioni di voti. Ma oltre alla Lega, noi abbiamo avuto il fenomeno di Renzi, abbiamo avuto il fenomeno dei 5 Stelle, e cioè ci si affida fino a quando non si rimane delusi rispetto alle aspettative che si erano coltivate. E in questo momento sta ancora trainando i Fratelli d'Italia, mettendo insieme soprattutto una capacità propagandistica e tentando, non dico di formare un blocco sociale, ma di mettere insieme pezzi di interesse rispetto a degli strati sociali che possono comunque consentirgli una sorta, se non di blocco, di alleanza per potersi appoggiare e poter continuare a governare. La grande forza di questo governo di destra è l'assenza di un'alternativa di sinistra. la vacuità, l'indeterminatezza, la debolezza da ogni punto di vista di chi si oppone favorisce ovviamente la situazione attuale. E ripeto, il 50% va a votare e ci si casca dentro. Io guardavo il programma in Germania di Alternative für Deutschland, che potrebbe essere preso a modello, ha raggiunto alle elezioni europee più del 15%, ma nelle elezioni regionali, Sassonia, Turingia e Brandeburgo, è salita di parecchio, arrivando al 29%. Ebbene, se voi andate a vedervi il programma, troverete che c'è sì il referendum contro l'euro, quindi cercare di imitare la Brexit, inglese, che significava convogliare l'ostilità rispetto all'Unione Europea, sostegni alla classe media, alle famiglie tradizionali. C'era questo in quel programma. Poi bisognava leggerlo tutto, perché in quello stesso programma, c'è un impianto di tipo neoliberista. No ai prelievi extra profitti, abolizione dei contributi di solidarietà, tagli fiscali per i ricchi, riduzione delle imposte di successione, no all'aumento del salario minimo, riduzione del welfare. E cioè si mettono insieme in un programma cose anche opposte, poi quando eventualmente si governerà si fa la scelta, come ha fatto la scelta i Fratelli d'Italia, e ci si barcamena utilizzando la conquista dei centri di informazione del paese e della politica anche culturale, perché noi stiamo anche sottovalutando un fatto, di come questa destra, a partire dai Fratelli d'Italia, è alla conquista, di quello che sarebbero si sarebbe detto un tempo, delle casematte, usando terminologie gramsciane. Loro, l'egemonia gramsciana non la coniugano dal punto di vista politico-culturale, ma la usano come tecnica per poter governare. Non a caso abbiamo anche un ministro della cultura, che cita ogni tanto Gramsci e che ha scritto addirittura un libro su Antonio Gramsci. Loro Gramsci non lo capiscono, capiscono semplicemente quella che può essere una tecnica di conquista del potere e nulla più, però è una tecnica che sta allargando il possesso, la proprietà dei centri di informazione, di comunicazione, di politica culturale, li sta mettendo letteralmente le mani sopra. Senti Saverio, proprio a proposito mi aggancio alla domanda che ti ha fatto Raffaele, perché quanto è forte invece il legame tra il capitale e le nuove destre? Il capitale usa la politica, e i cultori del capitale e del libero mercato sono quelli che hanno favorito la crescita di queste destre, di queste estreme destre. Questo è sempre successo. Se uno va a guardare l'ascesa del fascismo in Italia, vedrà come questo sia stato favorito dalle destre liberali. Il fascismo è stato lo strumento con cui il capitale ha battuto il movimento operaio e il movimento socialista in favore, di un'economia di mercato. Oggi, il neoliberismo ha fatto scelte che favoriscono poi in realtà la crescita dell'estrema destra, e lo ha fatto anche da un punto di vista politico, considerando comunque che il liberismo e le estreme destre non entrano in conflitto, rispetto al capitale, eh? Cioè, quando sentiamo da parte delle destre anche più estreme, usare espressioni di tipo anticapitalista, se non antiimperialista, sono semplicemente delle maschere. Voi non troverete mai in un'organizzazione di estrema destra o neofascista un vero progetto di superamento del capitalismo. Per le destre il capitalismo è uno strumento di potere, non è un insieme di rapporti di produzione, come può essere per chi ha un impianto di sinistra o marxista, non è un insieme di rapporti di produzione sociali, è uno strumento di potere. Chi ha in mano il capitale ha in mano il potere e non c'è mai un superamento di questa cosa del capitalismo. Al massimo c'è dentro i loro programmi un tentativo di regolazione e di contenimento degli effetti più dannosi dello sviluppo capitalistico. E quindi in realtà questa cosa che è accaduta storicamente sta accadendo ancora adesso ed è evidente sul piano politico, dove il Partito Popolare Europeo, che è il più importante raggruppamento di centro, centrodestra, neoliberista, si è progressivamente spostato a destra. È stato un cammino che viene da molto lontano, a dire la verità, cominciato addirittura nel 1983, quando inglobarono una formazione di ultradestra e la Nuova Democrazia Greca, e poi hanno preso sostanzialmente tutti al proprio interno, spostando l'asse in modo significativo e sostanziale verso destra. Ci fu un intoppo rispetto all'Italia quando nel 1994 arrivò sulla scena Berlusconi, perché si diceva da parte degli esponenti del Partito Popolare Europeo non possiamo accettarlo al nostro interno perché è alleato con i fascisti. E quella è stata una delle ragioni per cui poi il MIS si è trasformato in Alleanza Nazionale, perché non si poteva pensare di essere al governo in Italia e esclusi in Europa. E lì è nato il progetto di Gianfranco Fini, ma poi la cosa si è sbloccata qualche anno dopo, quando è nato il Polo delle Libertà, per cui sono state sdoganate figure ed esponenti che venivano dalla storia missina e del neofascismo italiano. Ma il Partito Popolare Europeo sta ancora andando progressivamente verso destra. È come dire, notizia proprio di queste ore, di questi giorni, delle continue convergenze a inizio legislatura da parte del PPE con formazioni di estrema destra, per cui si fanno passare emendamenti all'interno del Parlamento europeo, magari sull'immigrazione, votando Partito Popolare Europeo insieme addirittura ad Alternative für Deutschland. Per cui si è arrivati in un momento d'impasse, per cui addirittura si prospetta una crisi della maggioranza, che era stata appena costituita dopo il voto. Partito Popolare Europeo, Socialisti e Democratici, Liberali e Verdi, potrebbe essere una maggioranza solo, come dire, di questo primo inizio della legislatura. Potrebbe benissimo esserci un cambio sostanziale, nelle prossime settimane, con una nuova maggioranza in cui il Partito Popolare Europeo converga anche formalmente con le destre e le estreme destre di alcuni dei gruppi del Parlamento Europeo. Grazie. Allora mi accodo su Trump invece adesso io. No, volevo sapere, dopo le ultime elezioni di Trump, più o meno annunciate già da molti mesi, secondo te il Trump e il trumpismo può essere un collante per tutte queste organizzazioni di estrema destra europea, anche organizzazioni molto diverse tra di loro, e avere in Trump quello che comunque gli consente di essere visibili ai cittadini, all'elettorato, alla gente? Ma può essere un modello, ma lo era già quando precedentemente Trump era presidente degli Stati Uniti, era già un modello. Piaceva molto a molte delle formazioni qui in Italia, anche, non dimentichiamo che Giorgia Meloni ha partecipato a più incontri proprio con i conservatori e i repubblicani statunitensi. È andata in Florida, vi è stato un importante meeting in Ungheria a Budapest a cui ha partecipato, addirittura ha gestito un meeting dei conservatori barra repubblicani statunitensi a Roma solo pochi anni fa. Perché piace? quest'idea di una formazione che si muove disprezzando sostanzialmente lo Stato di diritto, che ha al proprio interno un fondamentalismo di tipo religioso, come anche di molte delle formazioni europee e per certi aspetti anche per quel che riguarda il nostro paese. Vedi la Lega, ma vedi anche gli stessi Fratelli d'Italia, per cui è un modello a cui guardare, lo era già, e vedremo nei prossimi anni, credo proprio di sì, possa essere un riferimento, perché io non voglio azzardarmi in definizioni, ma io credo che il movimento trumpista sia un movimento parafascista, non esito a definirlo in questo modo. Si guarda oltre Atlantico, devo dire che si è guardato anche dall'altra parte, verso la Russia, di cui piace e piaceva il ritorno al tradizionalismo, ai valori tradizionali della cultura, della famiglia e a determinati valori che per molti aspetti sono addirittura pre-rivoluzione francese, perché poi in realtà da quella parte c'è anche questo tipo di identità, per cui si guarda addirittura a un modello di società che viene ancora prima della rivoluzione borghese e della rivoluzione francese. Questo non è in conflitto con lo sviluppo capitalistico. Teniamo presente che da quelle parti si dice, sia in Russia, ma si è detto recentemente anche negli Stati Uniti, che il capitalismo può benissimo svilupparsi senza democrazia. È stato ribadito recentemente. In Ungheria si teorizza la democrazia illiberale, che potrebbe essere un ossimoro, ma non lo è. E cioè il capitalismo si può sviluppare tranquillamente senza avere un sistema democratico. Io ricordo alcune delle ultime lezioni, le definisco così, del politologo Giorgio Galli, che spiegava ai ragazzi solo pochi anni fa una cosa che era, come dire, preveggente. Diceva: guardate che in questo momento la borghesia non crede più nella democrazia. E questo è, come dire, un qualcosa che si sta realizzando e determinando. Si può fare a meno per lo sviluppo capitalistico di un sistema democratico borghese. Concordo con quello che hai detto, che il trumpismo è filofascismo, quindi penso che anche Raffo concorda Sì, su. sicuramente. Senti, Saverio, quando, diciamo, uno degli aspetti fondamentali di questo governo, soprattutto negli ultimi tempi, ma anche, diciamo, non solo in Italia, ma anche in Europa, è quello sicuramente del revisionismo storico. E tanto hanno fatto, diciamo, per ribaltare quello che per noi è, come ti posso dire, è assodato da anni. Perché invece buona parte della narrazione che passa in TV, sui media, sulla stampa, sui social soprattutto, diciamo, la narrazione che passa è quella raccontata dalle nuove destre. Guarda, una delle ambizioni dei Fratelli d'Italia è quello di riscrivere la storia del paese. E non è tanto la storia in questo momento della resistenza che c'è. Già nelle passate legislature i Fratelli d'Italia avevano fatto delle proposte, ma avevano pochi voti e nessuno ci ha fatto caso. Avevano fatto la proposta di equiparare i combattenti di gladio con i combattenti della resistenza, di equiparare le foibe alla Shoah. Ma la cosa che più gli interessa è guardare a ricostruire gli anni 70, questa è la mia opinione, perché in questo modo si rilegittimano loro. perché loro sono una rifondazione missina, non sono la rifondazione di Alleanza Nazionale, e hanno alcuni problemi, che è quello di ripulirsi, perché serve loro ripulirsi rispetto a tutte le vicende che li hanno visti coinvolti storicamente negli anni 70. In Parlamento, il presidente Federico Mollicone, del presidente della Commissione Cultura, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, la sottosegretaria all'istruzione Paola Frassinetti e poi anche un altro deputato che si chiama Antoniozzi, hanno fatto più proposte per costituire delle commissioni che rivedessero la storia delle stragi in Italia. Addirittura Mollicone ha proposto una commissione che esaminasse le stragi dal 1953 al 1992. 1953 si ritorna a Trieste, alle manifestazioni per Trieste all'Italia, quando alcuni manifestanti furono uccisi dalla polizia inglese, e passando tra le stragi nere fino al 1992 alle stragi di mafia, cioè un unico filo dentro cui annegare però le cose che a loro premono, la strage di Bologna in primo luogo, che è una specie di ossessione per i Fratelli d'Italia, cioè rivedere ciò che ormai le sentenze hanno definito, e che sono un grosso intralcio a questo tentativo di ripulitura, perché sulla strage di Bologna ci sono tre sentenze definitive e più due di appello, si aspettano le sentenze di Cassazione rispetto a Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, ma che dicono che la strage è una strage fascista. E queste cose, peraltro, hanno prodotto anche l'affossamento di tutte le piste che i Fratelli d'Italia hanno tentato di tenere in vita, a dire la verità, ancor prima di loro quelli di Alleanza Nazionale, le piste internazionali e medio orientali, che sono ormai affossate da queste sentenze, ma anche dalle decisioni della Procura di Bologna, che addirittura 9 anni fa ha concluso che non vi era nessun elemento per poter andare in Medio Oriente rispetto alla strage di Bologna. E quindi c'è un imbarazzo rispetto a questo. C'è poi la strage di Brescia, vi sono ancora due stralci in corso rispetto a due neofascisti che confermano che la strage è stata una strage di ordine nuovo e della NATO, perché poi in realtà rispetto a Brescia emerge con molta forza il rapporto molto stretto, l'anello che legava il gruppo dei neofascisti veronesi, in modo particolare, che sono stati gli esecutori della strage di Brescia, con gli ambienti della NATO, le caserme dei carabinieri di Verona, e rapporti molto stretti con gli apparati a partire dal SID. Ma come dire, questa è una cosa che rimane un po' sullo sfondo, perché la strage di Brescia non ha lo stesso respiro, peso politico rispetto alla strage di Bologna, che è stata in assoluto la più importante nel dopoguerra. C'è un imbarazzo e un tentativo di contrastare tutto questo, riscrivendo addirittura la storia, magari dentro delle commissioni parlamentari. Ricordiamoci, e concludo, che la manipolazione della storia, di fatti, episodi, serve per legittimare il presente. Questo è quanto stanno tentando di fare. Non si raggiungeranno più le vette dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano, che a un certo punto disse che Dante era il padre della destra italiana ancora prima che venissero concepite nel mondo le categorie di destra e di sinistra. Ma quello è l'indirizzo, e questo lo si può portare avanti proprio controllando il mondo dell'informazione, i grandi media, a partire dalla televisione. I libri si leggono poco, i giornali sono in forte calo, e i giornali sono in gran parte orientati da un'altra parte rispetto a una battaglia democratica antifascista e di informazione anche rispetto alle vicende delle stragi che ho detto io adesso. Ma poi sembra comunque anche hanno un certo rapporto molto forte con il negazionismo e con voler raccontare, diciamo, qualcosa di diverso rispetto alla crisi climatica che stiamo vivendo, ad esempio, no? Sì, guarda che penso di poter sottolineare questo fatto, che cioè la questione climatica sarà decisiva nei prossimi anni, ma lo hanno capito anche una parte delle destre. Le destre italiane da questo punto di vista sono particolarmente ottuse perché sono negazioniste. Ma al di là che siano negazioniste o abbiano capito del collasso climatico, la risposta comune di tutte le destre è la stessa, perché chi è che è più intelligente capisce che con il mutamento del clima, con le inondazioni, gli uragani, la siccità, la desertificazione, i processi migratori saranno molto più imponenti di quelli che abbiamo conosciuto fino ad ora. Gli altri, pur non capendo questa cosa, ribadiscono comunque una linea, che è una linea comune, cioè come si fa a gestire questa situazione? Blindando i confini, e per blindare i confini devi anche produrre passi in avanti rispetto a uno Stato autoritario, xenofobo e razzista. La questione centrale è la questione delle risorse, e cioè si dice apertamente le risorse a noi, non può esserci semplicemente la contaminazione etnica, che non è la questione principale, non può esserci che vi siano invasioni, tra virgolette, che mettano in discussione la proprietà del territorio e delle risorse. Quindi questa questione del clima si lega alle vicende migratorie e si lega alla politica e alle svolte autoritarie possibili e già in atto e già in corso in alcuni paesi, ma che, come dire, saranno un tema di attualità molto presto anche per quel che ci riguarda. Su questa linea, l'idea di nazione in luogo di paese. Quando si continua a veicolare nazione al posto di paese, si dice proprio questo: la nazione è degli autoctoni, il paese è, no, perché il paese è la società multiculturale e multietnica. E rispetto alla vicenda climatica, questa cosa troverà una conferma, se non l'ha già trovata, già adesso rispetto a come fronteggiare dei fenomeni epocali che rischiano di essere fenomeni che squassano letteralmente le società. No, ma infatti quello che dici è corretto perché già infatti si parla da un po' di tempo di migrazioni e di migranti climatici e infatti in parecchi di persone in movimento, di persone migranti sulla rotta balcanica soprattutto vengono, come ben sai, trattati senza nessun tipo di umanità. Certo. Chiudiamo con una domanda che abbiamo fatto, faremo a tutti gli ospiti che interverranno qui. Cosa significa essere fascisti oggi? Essere fascisti? Sì. Che cosa è cambiato in confronto agli anni passati? Se ci sono nuove proposte, nuovi movimenti, nuove politiche in confronto a quello che poteva essere il passato. Guarda, il pericolo dei fascisti oggi sta nella capacità di costoro di collegarsi ai temi del presente. Finché, come dire, costoro vivevano di nostalgie, vivevano di ricette politiche, di modelli sociali presi dal passato, come dire, si poteva fronteggiare la situazione con maggior ottimismo. C'è stato un cambiamento, ho cercato di sottolinearlo, da parte dei fascisti rispetto alle modalità di intervento riguardo la società e riguardo i giovani. Si sono e si stanno occupando di temi sociali, cercano di rappresentare, pezzi di società, che un tempo erano i pezzi di società che erano rappresentati dalle sinistre o da forze democratiche o sindacali. Questo è il pericolo che abbiamo di fronte, ma i fascisti sono quelli che sono al governo adesso, i Fratelli d'Italia, perché io ritengo che sia abbastanza fuorviante la discussione che si è aperta se i Fratelli d'Italia sono un partito nazional conservatore o che altro. Peraltro l'operazione, il progetto di un partito nazional conservatore è stato il progetto di Gianfranco Fini e che è naufragato, e che Giorgia Meloni bollò in modo molto preciso dicendo che Fini era il traditore dell'idea, traditore dell'idea. Quelli sono, come dire, un elemento che è ben più pericoloso delle frattaglie, delle organizzazioni neofasciste. Vorrei ricordare una cosa, che l'ultimo congresso nazionale dei Fratelli d'Italia, molti se lo sono dimenticato, è avvenuto diversi anni fa e nessuno lo aveva seguito perché non pigliavano voti. È stato fatto nel dicembre del 2017 a Trieste e lì dentro sono successe tre cose. La prima è l'identità, e cioè hanno cancellato il logo di Alleanza Nazionale e hanno recuperato il logo della fiamma tricolore, che era il logo del Movimento Sociale Italiano. Hanno avuto il buon gusto di tracciare sotto la fiamma una linea e non riprendere il parallelepipedo del Movimento Sociale Italiano, perché lì la cosa sarebbe stata ingestibile, perché MSI, raccontavano i reduci, non io, i reduci, che M stava per Mussolini ed SI stava per Repubblica Sociale Italiana, e la fiamma era quella che ardeva sulla bara di Mussolini. Hanno comunque recuperato la loro storia, non hanno fatto una rifondazione di Alleanza Nazionale, ma hanno fatto una rifondazione Missina. Poi hanno omaggiato in modo sostenuto Pino Rauti, e cioè il fondatore di Ordine Nuovo, cioè, secondo la magistratura italiana, lo strumento esecutivo delle stragi nere da Piazza Fontana fino a Piazza della Loggia. Questo lo dicono le sentenze. Anche là dove si assolve, come è successo per Piazza Fontana, i giudici d'appello e di Cassazione dicono non c'è alcun dubbio che lo strumento esecutivo è stato Ordine Nuovo, gli stessi gruppi del Lombardo-Veneto. Le ragioni dei processi finiti con assoluzioni è di peso anche dal fatto che dopo tanti anni non si potevano più contestare reati associativi e quindi bisognava dimostrare le responsabilità individuali. Ma le sentenze di condanna dei membri di Ordine Nuovo per stragi sono tante, ce le siamo dimenticate, non solo Brescia, c'è anche Peteano, c'è Bologna per quel che riguarda dopo la strage di Piazza della Loggia, ma ci sono tutte le condanne di tutti gli attentati fatti a partire dal 69 fino al 73, l'attentata strage sul treno Torino-Roma del 7 aprile del 73, condannati quelli di Ordine Nuovo, tutti gli attentati precedenti Piazza Fontana, 15 attentati in cui è riconosciuta la responsabilità di Ordine Nuovo di Franco Frede e Giovanni Ventura. E cioè, quando tu sostieni, come dire, la storia di Ordine Nuovo come interna, come è stata al Movimento Sociale Italiano, e la rivendichi in Fratelli d'Italia, fai un'operazione di identità molto forte, ma anche, come dire, una cosa che ci dice che tu riconosci tutta la tua storia degli anni 70, che è stata la storia eversiva di un tentativo organico attraverso attentati e stragi di sovvertimento delle istituzioni repubblicane. La terza cosa, se volete, può essere solo magari di colore, ma in quell'occasione Ignazio La Russa sventolò con orgoglio lo striscione della sezione del MIS di Colleoppio, che è la sezione dei picchiatori fin dagli anni 50, Missini. Se uno volesse ricostruire questa storia, io consiglio sempre di leggere un libro che è stato appena rieditato, Autobiografia di un picchiatore fascista di Giulio Salierno, che era stato uno dei picchiatori di Colleoppio, che raccontato lui in questo libro del 1976 la propria storia, che è una storia, come dire, interessante e importante, perché da picchiatore di Missino si venne incaricato di eliminare il comandante Valerio, quello che aveva giustiziato Mussolini e i gerarchi, e non ci riuscì perché in un furto di un'automobile che doveva servire all'impresa uccise un ragazzo che non c'entrava assolutamente niente e si pigliò 30 anni di carcere. Lungo questo percorso carcerario fece delle riflessioni, approfondì la propria storia, le proprie idee e si spostò a sinistra diventando un comunista, iscrivendosi prima al Partito Comunista e poi in Democrazia Proletaria. Giulio Salierno racconta la storia di Pino Rauti, racconta la storia dei picchiatori di Colleopio, racconta una storia del movimento sociale nel dopoguerra, e chi ancora, come ha fatto Ignazio La Russa, la rivendica, fa un'operazione di riconoscimento di questa storia. Per cui quando si dice i Fratelli d'Italia non sono un partito nazional conservatore, sono una rifondazione missina a tutto tondo. Saverio, noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite e per aver partecipato al nostro approfondimento il nemico, viaggi tra nuovi e vecchi fascismi. Veramente grazie. Siamo, grazie, come ho detto intanto, prima nella presentazione. Grazie. Grazie. E buon lavoro. Grazie veramente. Grazie. Speriamo di farne ancora di puntate interessanti, perché è un tema, come ti dicevamo, fuori onda, che va approfondito e sviscerato. Va grazie bene, buona ancora serata. Ciao. Bene, ciao ciao ciao ciao